lì. E adesso sono arrivato, monta lì. Adesso. Adesso sono arrivato. Sono stato al lavoro, sono andato al barbiere, dicevo la barba, la moro da lì. Me l'ho fatta accorciare, avere i capelli, se no fa capire un montanaro. E tu devi vedere a me, me l'ha giocata calzera. No, io non l'ho tagliata, no, accorciata, messa in ordine, là, era troppo lunga. Ascolta, ho letto il messaggio, quindi è arrivato tutto. Te l'ho detto io la GLS, siamo ben veloci. E io ho arrivato tutto. Perfetto, quindi ci possiamo organizzare anche per domani pomeriggio, primo pomeriggio, dalle 3 in poi. Ma devo buscare una strada per attaccare quell'altra antenna. E allora ci spostiamo a sabato, poi per Pacca, ci noto lunedì, a Pacca non ti venimo a farti vedere, a... se no a Pasquetta, ah no, lunedì è Pasquetta, se no martedì, decidi tu cosa vuoi fare, carta bianca. Ti faccio sapere dove la staffa mi devo buscare per quell'antenna là. E prendi la cazzo, una staffa per rompere ci vuoi, una ve la giù io, ma ci serve per su. Io lo so. E non ne ho altre, è stata lì, una ne ho io, una dice che ne la tolgo che è dentro l'armadio, se no poi mi dimentico, perché c'ho io, c'ho tutto pronto qua dietro la porta. Il tubo la staffa avevo da un'altra parte, capito? Vedi tu, fammi sapere, io una ne ho e ci serve per là, quella manco ci me la paghi, te la do con attaccare l'antenna della macchina, quella ci serve per su. No, non l'antenna della macchina, no, devo attaccare un'altra antenna che c'ho io per di là, Ah, quella, ti dicevo, una staffa palo ci vuole, una staffa corta palo si chiama, bisogna procurarla, non so, chiediamo, non è entrato nessuno, io una ne ho nata lì, ci serve per fare la cravatta all'altro palo, perché è lunga la mia, capito? È lunga, se no non ce la facciamo agganciare, è lunga, capito? Quindi, vedi un po', tu fammi sapere, capito? Io sono libero venerdì pomeriggio perché di mattina lavoro, sabato pomeriggio, domenica sono a riposo e lunedì lavoro, capito? Però sono libero sempre di pomeriggio, quindi domenica però sono libero tutto il giorno del Pasqua. Vedi tu cosa vuoi fare, carta bianca, tu mi dica domani. Faccio sapere, io ho già salvato PL. Controllati tutto, capito? Chi è che sta fischiando avanti? Gianni Ludovesco. Perfetto, Ciao già, buonasera, ma sempre a parlare oggi. No, già arrivi, è Natalino, sicuramente non ti sente perché c'è l'antenna, ancora l'antenna sulla finestra. Adesso in settimana montiamo l'antenna sul tetto. Lo senti a Gianni il profeta Natalino? No, negativo. No, viso profeti, ha detto Natalino, non ti intende. Lui c'ha l'antenna sopra la finestra, ho già capito. Ha arrivato tutto il materiale oggi, quindi penso che questa settimana montiamo tutto, se no la prossima, perché ci sono queste due fette di mezzo, capito? Ciao già, le prossime, ci riascoltiamo, ciao, ti saluta anche Natalino. E Marco intanto è Natalino. Ciao ragazzi, ho mandato anche due fette lì, però non ho fatto sentire. Io l'ho ricevuto a fine mattinata, mi messaggio tuo, perché è caricato a metà mattinata, capito? Non c'era internet, infatti stavo stamattina non so che cosa fare, devo sentire il telefono, ho usato il telefono al collega, però ho detto tutto, senza anche Massimiliano, gli ho già detto a Massimiliano che è arrivato tutto, quindi non ci sono problemi. Va bene, adesso dammi 5 minuti che mi do una sciacquata e poi sono qua, ok? Siamo qua, dai. Va bene, tanto è tutto acceso qua. Se vuoi cosa hai attaccato? Cosa hai attaccato che sei più forte nel radio? È un bel forte, ti ho scelto. Un bel forte di radio, il segnale è uguale. Il segnale è uguale, sono mitica con l'antenna, forse la mesia è anche un po' via. Forse con l'altra la ci vedete più citti, una c'è più alto, però questa è bella la radio, bella, bella modulazione c'è. Oh, Cucchelli, che merda. Io ce l'ho spento, adesso l'accendo. Ascoltami i VCD. Va bene, va bene. Marco forse doveva fare pulizia oggi, non lo so, forse c'è la zia, non ho capito, un accidenti. Cosa Natali? No, vuoi sapere se mi avrei detto qualcosa? Adesso mi sistemo il cane, comunque sono qua, dai. Fai se devi fare. Lascia questa per stasera, dai, se riesce con me. Perfetto. E cosa c'aveva il microfono? Vabbè, certo che sì. No, va bene, lascialo stare, perché quello visto che c'hai il microfono a tavolo, lo usi con l'antenna grande, capito? Va bene, dai, arrivo subito. No, ci sono io e Natalino, se tu Eugenio, non io non c'ero, ero fuori, sono rientrato alle 7, quindi. Sì, è arrivato tutto, adesso ci stiamo organizzando, manca ancora qualche cosettina, ma niente di particolare. Oh, yeah. Sì, perché? Perché Eugenio, non sei convenienti? Oh, beh, se stai lì alle curve in balaio non ho problemi, ti vedo. Che problema c'è oggi? Arrivi benissimo, c'è problema. Ah, ok, salutami a Natalino. E io, Natali ti saluta Eugenio, che è in macchina lì a Polotores. E Natali quello... Può dipendere che qualcuno lo senti o lo senti basso per la zona, capito? Però non penso, perché quella zona tua è l'ultima come zona. E infatti vediamo un po' com'è la situazione. Cosa Natali? Ascolta, ma da una parte solo l'hai salvato il piede, dall'altra lascialo stare che deve entrare dentro il muro mio. Perché l'altro deve entrare dentro il muro, se no cosa prendo? Bravo Tattalino. Ma chi te lo dico, che una volta mi ha fottito. Stavo aspettando a montare le antenne, però intanto mi preparo il capo, ma ci sono stati tutti di Bielle, figura di tu, di Trento, di Vola, di tutto, Calatta, senza ricordarmi che dovevo entrare nel buco della finestra, cazzo, ma ci ho dovuto mollare tutto d'ora. E con due pizze io l'ho affitto, e poi lo saldo, con due pizze, un casino, però quelli sono i temi, una volta che ho affittato, poi così... Non è che trappa molto facilmente come il capo fine, capito? Bravo, quindi siamo pronti. Un caduto di balle che dobbiamo scenderne prima quella là, l'antenna. Oh, vabbè, che ci serve il tubo, capito? Va bene. Sono Renato, riuscivo vivo a barbare un bel frate barino. No, a me me la tutta accorciata, bella, ordinata, pulita, arratta. Tutta bracciata, beh, no, ma me la lascio, non me la frega più niente. Va bene. Eugenio, perché ti sei fermato al Tropical? Guarda che ti vedo io. Sta, lascia al Tropical. Sto facendo un giro con voi, sta facendo un giro. Ma mai sei sempre in furgone, come riferiti, Eugenio e company. Marcesa consuma. Consuma. Pensavo che non consumasse. Vabbè, macchine grosse. Consumano tutte. Allora. Nella via lo stesso. Nella 900 ci vado a cavare, consumando. perlomeno fuori no. Infatti per andare a lavorare usava la 600. Oh, io ho messo Pippo, ciao bello di nonno, Pippo, trattami. Che ne so, 7:20, ancora devi aspettare meno di una gara, nonna va a buttarti, eh. Hai detto, un attimo. No, che okay. Ma, beh, sono arrivato. E sono arrivato tardi al lavoro. Ho pranzato alle 5, sono andato al barbiere, se uscì dalle 7, vivo di due. Vado giù a Gigi, capito? Da te hai detto. Sempre pieno di niente. Sempre pieno. Io andavo dal padre. E poi da lui, capito? Andavo quando ero via Pascoli, che era vicino, e poi adesso che sono qua vado lo stesso da lui. Diritto mi hai. Vabbè. Attento Ratta Pignara, ci sei? Marcolino Condor, noto Ratta Pignara. E sicuramente a portare il bigiattino. Quella vita che non magna, capito? Ma lei le ha portato un termos di caffè per non darle un euro, mi. Non è che si fa chiarire cosa di. No, non è amica mia, non è allora amica mia. Allora, prima andai a cattare la mia lì, capito? Dove sei? A Patamona a fare due prove, sì, domani. Anche lì stava mettendo a posto l'armadio, mettendo un po' di roba vecchia da parte, a darla alla fidanzata. Oh, c'ha questi orari balordi, alle 8 chiude, capito? Perché devi guardarsi il telegiornale? Faccia cultura, è colto, Però mi pare strano, mi piace per vedere il telegiornale. Non lo vuole ammettere lui, io non ci credo. Le 8 chiude perché deve guardarsi il telegiornale, a me mi pare si giamba, si traveste. Anda a Plattamona, la rotonda, ciupa! Ma io la taria di ti ho trovato una parrucca dentro l'armadio, lui c'era la gioia, ma non dirà mamma. Sicuramente però. Bisogna metterlo appresso per seguitarlo. Attento al gay, Valerio di Alghei. Lo Valerio quando siamo le giornate. Se ne va a Capocaccia a vedere il mare e si dromi. Capito? Ma il matti anche lui si fa la pennichella lì, cioè non disturba nessuno. Ma uscire. E più prove. Passi gente, andando e correndo. E ma vera mamma a casa ancora. Dove lavoro alle 8:30. E quindi è fatta la mamma andando e correndo. Da una casa all'altra. E anche il mio affezionato a voce. Però quando vede la mamma Miri c'era Massimiliano, come vede Massimiliano diventa mamma, infatti l'ha aspettato nelle scale, però contemporaneamente a Massimiliano è arrivata anche mia figlia e quindi ha mollato a Massimiliano e è andato da mia figliola, poi è tornato da Massimiliano. Tu yoga, capiti lo vasi, e tutto lo disintegreggia, capiti? Lo fa questi. No, ma come sono? Ecco che, Massimiliano. Voi sì. Allora parli e si vuole vicino a Riccari perché non scende giù, non è mai sceso. Scende solo se lo chiama il ragazzo di mia figlia o mia figlia, se no non scende. L'ha digitato i Riccari, ovviamente è arrivato giù per il Nanto. Però l'ascensore è uscito a mia figlia, l'ha mollata e fa tutto la mia figliura. Poi quando era dentro, la mollata è tornata in ovvia, era per balle Massimiliano. A me torre no, cosa vuoi? Cosa? E cosa c'è? Si può non vedere la cadria, mi gratta lì sempre il culo, vai a via, non ci gratta a te. Mi, chi c'è? Catalino c'è. Abbaia la tua Catalino, abbaia. Toffer, cerco. Non ti credo che abbia un vai dentro, non ti vedono. Mi, Massimiliano c'è. Filippo! Lo che ha passato, Massimiliano? Mimi, chi c'è? Chi c'è il nonno? Filippo, vieni qua, Filippo! Il civacco devi intendere. Ah, è qui, no? Vedi che non c'è? Sì, dalla voce ti conosce. Vabbè, perché io lo gioco quando vado lì. Gappa. Andiamo, Filippo! Filippo! Filippo! Attento, Filippo! Ma se già lo giochi, lo distruggi. Gappa, mi è entrato anche B. sei, genio? Ma sono Balai. Sono a Patraona, al centro commerciale. Avevi a vedere in due un Natalino, ho capito, centro commerciale, così hai detto. Eia! Va bene, va bene. La mia Massimi. Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Era snocciato, mi stavo un po' rilassando al divano, avevo preso questo accumulo. Domani è ferie, rientriamo mercoledì là. Andiamo va bene un po' di weekend lungo. Ah, va bene, per te, andrà bene. Io invece lavoro domani, sabato, domenica sono a riposo e lunedì riprendo. Capito? Però usciamo presto, eh. Non c'è problema. Io mi ero al barbiere, mi sono fatto accorciare la barba, era un bel lunga. Lui è tutta. E la mandiamo avanti. Mettilo un po' di balsamo, e già va bene, là. Avanti, Natale. Natale. Allora, io combattendo in lunga. Sì, sì, ma non sono barbiere. Ma sono barbiere. Andiamo avanti, andiamo avanti. E fermo, Filippo, gli chiede di bere, ragazzi. Mamma mia. Filippo, vai via da lì, Filippo. Dove, Massimiliano? Dove? Nella porta. Adesso nella porta, va. A vedere la Iana e mi ha recidriti, a vedere se arrivi. Chiappa, chiappa. Cadono già a me. Io muoverò ancora la macchina. Perché magari sente la voce, capito? Ok, no, vedi che la radio, mi sali qua, sali sul microfono, mi sto allucinando, prendendo la Iana, eh. Ok, no, vedi la radio, qui a nonno, mi guarda, guarda. Sì, yes, bubu. Avanti, Bizzona. E la Iana è partito da là. Vabbè, Natali, tutto a posto, tutto arrivito. Gappa, gappa, va bene, va bene. E adesso non manca una staffa, però, una staffa per lo paro. Infatti ce ne vuole due per attaccare quella dall'altra parte, ma io non aggiungo giù e mi serve a settare il paro. Ma lì lo sai cosa andrebbe bene anche? Come te lo posso spiegare? Barra filettata passante. Massimiliano, devi vedere. Io pensavo lo stesso, ma no, non si può. Non si può, perché te l'ho detto com'è, dove mi devo agganciare, l'altra che è sopra. Ma quella di sotto, quell'altra che è sopra per mantenere il palo. E poi la barra filettata la metto. E quei morsetti da ponteggio bene vanno. Quello con un tronchetto, sì. Sarebbe l'ideale. Un tronchettino dalla staffa che c'è al palo, capito? Sarebbe ideale. Sarebbe ideale, un tronchetto non so a quanto vuole, 30-40 centimetri. Ho capito. Se parrocchiero. Però aspetta, è il palo, quel morsetto da muratore, diciamo, del punteggio. Allora acchiappa quando è tutto stretto. No, quel piantone che c'ho io acchiappa, gli altri non l'acchiappa, per quello ci vuole una palo palo, capito? Che stringe, che è più piccola. Quel tubo che ti ho fatto vedere io qua, quello già lo stringe. Sì, quello sì, ma quando sale l'antenna è il tubo più fino però. Infatti, siccome poi va andando e stringendo, allora per far sì che agganci bene, che stringa bene, ci vuole una staffa palo palo. Una staffa di quelle praticamente da antenna, capito? Sì, vabbè, mi pare che sia abbricco, mi costa una cazzata. Sì. E infatti quella lì magari all'abbricco come costa una decina di euro, credo. No, costa di meno lì. Pagata io 12 da Tonino. Però è lunga, è di quelle robuste, tipo quella. A te una l'avevo data, Massimiliano. E io? A me. È tipo quella che avevo dato a te. Ce n'era un'altra su. Non sa la macchina, non sa per lui. Non sono salito per sistemare il palo, perché ci serve per Natalino, ho trovato l'altra staffa e quindi l'ho messa subito da parte perché mi serve per agganciarmi, capito? Se no devo farmela fare dal mio collega, capito? In officina sorso, ma visto che ce l'ho, non l'ho già comandato nulla. Ma io volevo capire una cosa, no? Questa staffa che sale su, questa che ho già messa su, non è a filo di quella di giù, no? No, sono stata a filo di giù, non l'avrei messo una fascetta, capito? Di quella in ferro. Grande. Siccome è distante. che almeno 20-30 centimetri sarà spostata, ma adesso la misura esatta non ce l'ho, quindi ci vuole una staffa a farlo, se no lo baro diventava reduccio. E per quello te lo stavo dicendo, se non tu metti un vero grosso, la canciata lì e via. Caparroggero, casino, così su mare lungo. Massimiliano, abbiamo alternative. Non abbiamo alternat, poi bisogna vedere, adesso noi siamo organizzati così, però bisogna vedere se poi dalla finestra, dall'altra finestra di coso, di quello di su, riusciamo a infilare e tirare. Se riusciamo a infilare e tirare, gliela metto direttamente dalla seconda staffa. Vabbè, io se l'ho piatto tutto e tira fuori sopra così. Sì, sempre è tutto piazzato giù. Tutto piazzato giù. Con la corda si tira su, se riusciamo a innestare il piantone che ho io in quella staffa e tirare su 3-4 metri, allora siamo a cavallo, siamo già fuori. E giù rimane tutto com'è, capito? Dobbiamo studiarla bene lì sul posto, una volta che abbiamo tutto il materiale pronto, vediamo che cosa possiamo fare, se sta a fare da giù o sta a fare da su. Va bene. Vediamo un po' se c'è Eugenio ci sei. Ti ascolto, non c'è problema. Il problema sarà io arrivare lì a Platamona, boh. Cosa non si dice, mi sto aumentando qui in Tarantana, cos'è detto? No, ho salutato Eugenio che lì alla torretta di Platamona, gli ho detto, non so se ci arrivo io lì a Platamona, boh. Anch'io non so se ci arrivo. Capra. Datemi un secondo che metto il guinzaglio al cane. Andavè. Vai Natale. Dovevo, era io su Vizzavà. Ehi, se te lo sto dicendo. Andavo a casa sua, una cosa impressionante, devo fare pizzi su gare. Bello piazzato, anche a me ci prova, ma come lo fanno? Beh, confronto al mio, ragazzi, il mio pesa 2 kg, dove c'ho il pincher, capito? Però è quella razza piccola. Ragazzi, mi incrocio, io chissà i pincher hanno fatto. No, il mio è pincher, là. Padre e madre sono pincher. Sono tutti e due puri, sia il padre che la madre. Io ho preso la femminuccia. Dice complicato, tiriosa. Il mio è un pitch. È un pitch, tutto. Qui si entra la sotto, entra. A musicarli Pistolino, ha finito. E allora? Ma Pippo non ce lo fa musicare, vai Pippo. Senti che sei il Massimiliano. Sì, direi che si ne andata la mamma, va. Chi è? Oi, lascialo dormire un altro po', intanto vi faccio altri 2 passaggini e poi mi pongo il dono di farlo io. No, io vi lascio l'opporto, là, che sono già meno un quarto, se ci siete già torno subito qui, a dopo. Ehi, Claudio, no, io mi stacco un po' là, io mi stacco molto, al vero, mi metto un po' nel divano, mi guardo un po' di TV. E poi, non lo so, magari più tardi, non lo so, se c'è qualcuno più tardi già rientro, là. Ci aggiorniamo dopo. Ciao Claudio, Natalino e Eugenio e chi ci fosse in ascolto. Dai, mi abbandono, ciao. Ciao, fatti sentire domani giornata, già sono libero. Andale. Qui qua. Ancora me ne sono cazzato in prescia. E passando la via Cruci, se vai Lombretti, che attendi, lui, se ti dà più oggi a baggiare un microfono che Lombretti ti sente la messa. Via Succis. La via Cruci, sì, via Succis. Via Succis. E allora, non può vedere Filippo, va. Paga un appoggio Filippo, tua figlia. E così, esatto, questo non l'ho comprato a Sassari, no, che è arrivato dall'Inghilterra. Ah, ma in terra arrivito? Ehi, da terra l'ho trovato allora. Ma chi c'è, chi c'è? Cuocuomane, non uscite a Cuocuomane, Natali, Cuocuomane c'è, sempre che Cuocuomane. Non c'è Natalino, quel Cuocuomane Natalino non c'è. Ma voi ti faccio parlare con Muro, eh? Vuoi parlare con Muro? Vediamo poi ti suona il campanello, eh? Di quanto, quanto cognome dico? Eh? Oh via, mi lascia appena rientrato. La fa la spesa. Ma che cazzo va il telefono? Ora è il telefonaggio. E adesso andiamo a mangiare. E c'ho un leggero mal di gola. Siccome io ho il vizio di quando fa caldo, ma la corrente c'è sempre, sai, la dieta fresca. E ma fui minato. Mi hai tu? I misuri prenditi. Ma non ho bisogno di un pigliato. Oh, ma dice che fai a Fortunato? Cos'è? Dice che fa la moto carrozzella? No, io non ho niente. Che sono? Che siamo cazzo? Chi sei lui? È tutta la bocca, niente. Si dice a Fortunato. Capito ognuno, già è molto conosciuto a Sassari. Lui è come stravaganti. Oh già. Grava sonda. E dopo. Avanti molto ridi. Soprattutto come c'è sempre con Giuseppe, sta sempre con lui, no? Sono portato appresso. Un continente. Perché dove vanno, non mi ricordo, forse un parente, un non so, di Giuseppe, doveva fare un'operazione, boh. E comunque sono arrivato pure a Gaffino, allora che ti ha fatto? Sei arrivato, cioè tu la metti, la vai, va, e te le pomolette di scuola la barba, ma la scuola la barba di un anno, due anni, tre anni, vabbè, comunque, all'aeroporto non mi rimando. La pulizia, mi ha sequestrato tutto, e se la sai che mi vuole i poliziotti. Ecco, cazzo, mi dite che si cascone, mamma, cazzo, mi chiami di cascone, io tutto il tempo, ma io me lo fami. Sai, tu la metti, sai che stai ora, tu la metti, ma tu vedi. Si va porca a paletta. Io via, a mia unione, eh. Mi è arrivato a finire la lavata di trovetto, che c'è sceso il portamo. Non è via dal circolo con noi. Stato in Kiwi, ha rubato la lettera della Ianna, adesso a consumare un bizzi. Poi l'altro lo fate nei bizzi, due tre fine e si inciccia. Tu devi vedere. Ma no, io cazzo, cazzo, dopo cazzo. E si inciccia che non vizia la rubina. E là è tu. Quanto franco, mi viene la mucca. Anche mia zia, aggiungere gli HPO, come stava arrivando la giura, c'è su il come coghe. Vabbè, dai, signori, io vado a cenare, la prossima, buona cena anche a voi, tanto io sono vai e vengo, un caso sempre così. Dai, alla prossima, ciao, ciao Natali, ciao a tutti, buona cena. Ciao Rogerie, saluta mamma, ci sentiamo. Gratis, ciao. E via, tuo pagamento. Aspetta, ognuno, il sabato è un po' assente in questi giorni. A forte di mangiare yogurt, è sempre bruciato il pomolo. Ah, come mangia yogurt, ecco, mangia l'ovulino, con la rete, un pezzino. E via, via. La mia figlia è andata al lavoro, mia moglie è andata a fare una passeggiata, mia moglie non si canta mai, c'è solo pezzinco. Io che... ho fatto tutta una tirata di finale 5, no. Di qui, ricordino, cannau, ehi, qualcosa già ce l'ho su, se non mi serve molto, sì. Ehi, allora vai, tu fammi sapere domani mattina, mandami un messaggio, così io mi organizzo, capito? Mandami un messaggio domani mattina, così io so cosa dobbiamo fare domani pomeriggio. Quella più grande che c'è, prendi Natali. Ho capito, la più lunga che c'è, prendi. Non la prendere corta, prendi la più lunga che c'è, perché quella che ho io è lunga, però tu prendi la più lunga che c'è, sa mai che ci serva quella. E quell'altra che è più corta la operiamo per fare l'altro lavoro. Gappa gappa. Andare. Ok, poi vediamo se è fattibile, quella staffa, se c'è un altro sistema per fermarla, vediamo. Già ci arrangiamo comunque, non è problema. E man manco pensando ci sto. E mi occupo di anni più che c'è radiale che altro. Io ero convinto che era un picco di quella via. Sapevo calcolato tutto pure nel disegnino, avevo calcolato tutto la distanza anche del muro. E invece da fottito di sera di c'è lungo un metro, e poi c'è di alluminio. E pensavo che erano di fibra, quindi non mi sono preoccupato, ma vabbè, una maniera nell'altra era tirata nuova a testo pure da diari. L'ultimo ci mette alla fine. Se non avete rompito ho fatto tutta una birada, capito? Mamma mia, come sto? Ma te va, vedi i dolori, mia, come stanno con i dolori, fatti ribassare. Casino è così. Quando è così è un casino, Non fa. Cosa vuoi che ti dica? Ma se diventa la pomata e prende qualche antifiammatorio in più, io ti basso, non è un problema. Io la sono abituato, quando mi viene una bustina di bisogni passa tutto. Già ne non lo so se avrò da fare, non so, insieme a ieri ho detto ce l'avrò da fare, boh. Non so per questa roba, sarà giù col cane, no, io se c'è 10 minuti, mezz'ora, un'ora, entro tutte le sere, capito, mi hai. E lui andava a bere e quindi sono andato via anche prima, sono già sei oggi e potevo trattenermi, poi domani c'è un rientro, venerdì, quindi, però appunto ti ho detto tu manda un messaggio una mattina, così se ci abbiamo tutto che si informa, io non faccio rientro, capito mi hai? Mollo tutto, aiuti. E lui e mezza sono a casa, mangio un boccone e poi siamo lì, capito? Dalle tre alle sette a voi alla fine tutto, fa buio alle 8:30. Ma allora avvisami, capito mi hai? Tu vai al piccolo e guarda se ci sono, capito? Se non ce la Fusaro, quella staffa che l'avevo comprata lì, ce l'ha la GBC, ci danno corte lunghe, tu prendi sempre la più lunga che c'è, ricordatelo, perché più lunga è meglio, va bene, c'è la padrosa, adesso domani salgo, tu da qui, la staffa adesso la tolgo, ho messo nel poggioro, la mattina salgo, prendo l'altro tubo, vado dietro, c'è l'innesto, siamo pronti. Va bene, adesso ti saluto, passo e chiudo, vado a iniziare a preparare qualcosa, adesso mia moglie non c'è, mi è giù un biglietto, sicuramente vedrà da preparare che cosa, comunque tutto acceso qua, ok?